santo giorno mi sveglio e guardo fuori dalla finestra quello che succede in questa parte dell'universo. Poi vedo te, corri per la strada, ma chissà dove andrai con quegli occhiali da sole. Sembri Elton John, un giorno che si era perso. Complicazioni sentimentali, è più facile guardarti il culo mentre ti allontani. Ma chissà se anche tu mangi la pizza con le mani. Le relazioni elettroniche, il battito nel cuore dell'etere, e vai a vedere che è semplice innamorarsi di te, che sei più giovane. Ogni santo giorno mi sveglio, accendo la radio, tu resti nel letto, dormi ancora un po' mentre mi rado allo specchio. Combinazioni particolari, sembro tuo padre se mi metto gli occhiali. Ma se ti prendo la mano come due farfalle ce ne andiamo lontano. Segreterie telefoniche, il tuo strabismo di Venere. È strano questo disordine che porti sempre con te, che sei più giovane, stupida. Non ti arrabbiare, sei unica. Ho già paura di perdere se mi innamoro di te, che sei più giovane. Dai, spegni col cellulare. Ma come, chi è Mick Jagger? No, non ho voglia, sono stanco. Ma lasciami stare. Schiena Martina, non c'ho mica vent'anni. Stupida.